Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. San Pietroburgo, chiusa una nuova tratta della metropolitana, identificato l'attentatore, le vittime sono 14, 12 i feriti gravi. A Palti nella sanità, arresti e perquisizioni a Napoli, inchiesta sulla corruzione anche a Milano, in manette tre funzionari del comune. Sale il potere d'acquisto, più 1,6%, il rialzo massimo dal 2001, stabile nel quarto trimestre il rapporto tra deficit e PIL. I 5 Stelle di Roma lanciano l'idea di petizioni online e referendum su internet, democrazia diretta entro 5 anni, dicono. Palermo assolto l'accusato di estorsione, le associazioni antiracket e la famiglia della vittima del racket condannati a pagare le spese. Calcio stasera la Coppa Italia con il derby di Roma, è la prima partita con la rimozione delle barriere delle curve all'Olimpico. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, mentre siamo in diretta anche dalla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, una diretta video naturalmente, potete se volete commentare anche là. In apertura gli aggiornamenti dalla Russia. Narita D'Ambrosio, buongiorno. Buongiorno Simone, i servizi segreti del Kirghizistan hanno interrogato questa mattina i genitori del ragazzo sospettato di essere il kamikaze entrato in azione ieri nella metropolitana di San Pietroburgo. Si tratta di Akbaryon Dialilov, 22 anni, nativo della Repubblica, da 6 anni residente a Pietroburgo, dove intanto la paura non è passata. Le stazioni, come hai detto, che servono l'intera tratta centrale della linea blu della metropolitana, quella teatro ieri dell'attacco terroristico, sono attualmente chiuse al pubblico, 7 stazioni per la precisione. Secondo il sito Fontanka, la decisione dello stop al servizio, che era ripreso questa mattina regolarmente, è stata una telefonata anonima che denunciava il piazzamento di possibili ordigni esplosivi. Intanto il comitato investigativo russo ha confermato che i resti del kamikaze sono stati ritrovati nel terzo vagone del treno della linea dove c'è stata l'esplosione. L'identità dell'attentatore però i russi non l'hanno ancora diffusa per ragioni investigative. Hanno detto che probabilmente sarebbe legato a miliziani siriani. Il Ministero delle Situazioni di Emergenza ha pubblicato l'elenco delle vittime, come dicevi sono 14, 11 morti nel vagone dove si trovava il kamikaze, 3 in ospedale, 49 i feriti, di cui 12 gravi. È tutto Simone. E grazie ad Annalita D'Ambrosio per questi aggiornamenti, l'analisi di Alberto Negri. Putin e Trump, dopo l'attentato di San Pietroburgo, hanno concordato sul fatto che il terrorismo è un male che deve essere combattuto congiuntamente. Dunque, Russia e Stati Uniti si uniranno in un fronte antiterrorismo, come aveva indicato il presidente americano durante la sua campagna elettorale? Le tensioni tra Mosca e Washington sembrano per il momento escluderlo, ma la realtà dei fatti dice che l'America e la Russia hanno qualche obiettivo comune. In primo luogo far fuori l'ISIS è una galassia jihadista che organizza attentati ovunque e ispira i lupi solitari entrati in azione sia in Occidente che in Russia. Il problema del ritorno dei foreign fighters che si erano arruolati con l'ISIS o Al-Qaeda in Siria e in Iraq segnerà poi con ogni probabilità la questione sicurezza nei prossimi anni. La Siria può diventare il campo per sperimentare una collaborazione tra Mosca e Washington, che evidentemente avrebbe riflessi diretti anche sulla sicurezza europea. Gli americani hanno rinunciato ad abbattere il regime di Damasco di Assad, sostenuto dalla Russia, e i russi, insieme agli Stati Uniti, appoggiano le milizie curde siriane nell'assedio a Raqqa, capitale del califfato. È il momento per mettere alla prova la buona volontà delle due parti, ovviamente senza farsi troppe illusioni. Veniamo all'Italia, due inchieste per corruzione, una a Napoli, l'altra a Milano. Iniziamo dal capoluogo campano e siamo in linea con Laura Vigiano. Buongiorno Laura, in cosa consiste questa inchiesta? Che cosa ha portato? Eccoci, buongiorno. Sì, buongiorno. 10 destinatari tra amministratori di enti ospedalieri e universitari, rappresentanti di imprese e imprenditori ritenuti responsabili a vario titolo di corruzione, turbata libertà degli incanti, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Sotto la lente della DDA di Napoli, appalti che hanno riguardato anche l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santo Bono Pausilipon e l'azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Tra i soggetti coinvolti agli arresti domiciliari, l'avvocato Guglielmo Manna ex marito della giudice Anna Spugnaniglio, che già è a processo con altri uomini dello staff del governatore De Luca, quindi per alta indagine, e alcuni esponenti della Manuten Coop di Bologna. Manna, lo ricordiamo, è coinvolto in questa inchiesta perché appartenente all'ufficio legale del Santo Bono Pausini, con più di 2 anni di indagini. Un lavoro sviluppato e partito dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, e in questo caso è stata determinante la confessione di uno dei protagonisti, Pietro Coci, rappresentante di una delle ditte vincitrici di appalti, che hanno riguardato servizi di pulizia, distribuzione merci per magazzini farmaceutici e servizio di portierato. Uno degli appalti aveva un valore di 11,5 milioni. E per assicurare che le tangenti e le promesse diventassero concrete, c'è stato anche chi ha in qualche modo chiamato in campo il clan Polverino, minacciando appunto di farlo intervenire. E effettivamente, insomma, da quello che hanno raccontato i magistrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa, non era praticamente una non erano dichiarazioni che millantavano in qualche modo credito presso il clan. Ti ringrazio. Ti ringrazio. Grazie a Laura Vigiano per questo aggiornamento. A Milano, dove in manette sono finiti 3 funzionari del comune. Quanto costa un certificato di stabilità? Anche 100.000 euro e un orologio che ne vale 11.000. Dopo i lingotti d'oro si aggiungono anche i contanti e i gioielli nel sistema corruttivo scoperto all'interno del comune di Milano. Così, 2 anni dopo i primi 4 arresti, altri 3 dirigenti finiscono in carcere con l'accusa di aver pilotato, secondo la procura, gare di appalto a favore del consorzio milanese Scarl e di imprese associate. La mazzetta corrisponderebbe al 5% dei lavori di manutenzione di una scuola, e a pagarla sarebbe stato l'imprenditore edile Marco Volpi, già arrestato all'epoca, a favore di Massimiliano Ascione, già titolare di posizione organizzativa del comune. I soldi sarebbero stati la tassa, quanto ricostruiscono i PM, per ricevere il certificato di stabilità di un edificio scolastico. Dai contanti ad un altro classico strumento per entrare nelle grazie dei dirigenti pubblici: fargli lavori di ristrutturazione a casa. Anche questo c'è in questa indagine, che all'epoca fece parlare l'allora sindaco Pisapia di 4 mele marce, che ora costringe l'amministrazione della città, considerata ancora capitale morale del paese, a interrogarsi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche oggi dati importanti dall'Istat, in questo caso riguardano il potere d'acquisto, i conti pubblici. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così. Dati di oggi dell'Istat che permettono un bilancio per il 2016 per i conti della pubblica amministrazione e per lo stato di salute di famiglie ed imprese. Per la PA lo scorso anno si è chiuso complessivamente con un deficit pari al 2,4% del PIL, in riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2015, dato ancora migliore nell'ultimo trimestre dell'anno con un 2,3%. In diminuzione in chiusura di 2016, quindi, la pressione fiscale meno 0,6 punti sullo stesso trimestre del 2015, con una discesa al 49,6%. Il dato che più salta agli occhi per oggi dell'Istat è il potere d'acquisto delle famiglie, aumentato dell'1,6% nel 2016, facendo segnare il rialzo maggiore dal 2001, ovvero da 15 anni, nonostante la frenata di fine anno. Rialzo che si è tradotto anche in una maggiore spesa per i consumi finali e in una maggiore propensione al risparmio. Tornano a salire poi i prezzi delle case, bene infine la quota di profitto delle imprese, che raggiunge nel 2016 il valore annuo più alto da 5 anni. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Veniamo alla proposta di delibera presentata dalla maggioranza 5 Stelle in Campidoglio e che riguarda, per così dire, la democrazia diretta. Elisabetta Fiorito, di cosa si tratta? Buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Sarà possibile presentare petizioni online e sperimentare il voto elettronico per il referendum comunale a Roma. La proposta di delibera è stata presentata dalla maggioranza 5 Stelle in Campidoglio per modificare lo statuto di Roma Capitale, e l'auspicio dei grillini è quello di passare da mafia capitale alla capitale della democrazia diretta. Il progetto è stato appunto presentato dall'assessora alla Roma Semplice Flavia Marzano e anche dal deputato Riccardo Fraccaro. L'idea è introdurre petizioni popolari online con la possibilità di illustrarle in aula. Abolizione del quorum di partecipazione per i referendum comunali, bilancio partecipativo. Noi usiamo una piattaforma rivoluzionaria, la Rousseau, ha detto Flavia appunto Marzano, e vogliamo avviare questo modello anche dentro il sito di Roma Capitale, dando la possibilità ai cittadini di esprimersi. Ma potrebbe essere proprio l'utilizzo della piattaforma Rousseau a scatenare le critiche dell'opposizione. A te, Simone. E grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Si è concluso intanto, come sapete, la prima fase congressuale del Partito Democratico, che ha incoronato Matteo Renzi, almeno per il momento, finché non ci saranno le primarie aperte, appunto. Questa è dedicata all'analisi di Daniele Biacchessi, sentiamo. Non sembra esserci partita nella sfida a tre per la guida del Partito Democratico tra Renzi, Orlando ed Emiliano. La vittoria di Renzi tra i militanti dei circoli apre la strada ad un probabile consenso ancora maggiore alle primarie allargate al più vasto elettorato del prossimo 30 aprile. E la prova provata sta nei numeri definitivi del successo di Renzi tra i militanti del partito. I votanti sono stati esattamente 266.726. 81.200, il 67,8% hanno scelto Renzi, 68.300 il 25,5% Orlando, 17.500 il 6,7% Emiliano. Renzi ha ottenuto un vero plebiscito praticamente ovunque: Campania, Abruzzo, Sardegna, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Calabria, Alto Adige. Con questi numeri la rimonta di Orlando ed Emiliano ai gazebo del 30 aprile diventa quasi impossibile, anche se proiettata su oltre 2 milioni di elettori del PD. Diventerebbe dunque realtà il progetto renziano di riprendersi definitivamente il partito, nonostante la sconfitta al referendum dello scorso 4 dicembre e la conseguente fuoriuscita della ex minoranza del partito di D'Alema, Bersani, Rossi e Speranza. Sarà un progetto più ampio che punta al dialogo con il 5 Stelle, anche se poi alla fine l'ultima resa dei conti arriverà dopo le primarie. Intanto vi diamo conto di una notizia che arriva dall'estero ed è una notizia importante e che naturalmente andrà verificata. Sono almeno 58, tra cui 11 minori, i morti in un raid aereo avvenuto oggi in Siria con il sospetto uso di gas. Si tratterebbe quindi di un attacco chimico. Questo secondo l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani. L'ONG, che ha citato fonti mediche, ha aggiunto che il bilancio potrebbe aggravarsi perché vi sono anche 160 feriti o intossicati, alcuni dei quali in gravi condizioni. Queste le notizie che abbiamo al momento e che verrebbero da Khan Seikhoum, nella provincia nord-occidentale di Idlib, che è in mano ad insorti e qaedisti dell'organizzazione Fatah al-Sham, che è l'ex fronte al-Nusra. Appena avremo maggiori aggiornamenti su questa vicenda, naturalmente ve li daremo. Abbiamo parlato di conti pubblici, ci occupiamo di un altro tema importante per l'economia italiana, che è quello delle banche. L'attenzione si concentra in queste ore sulle due venete. La Popolare di Vicenza e Veneto Banca tirano un sospiro di sollievo. Anche se la notizia non è ancora ufficiale, la BCE avrebbe confermato la loro solvibilità, dando il via libera alla possibilità di accedere agli aiuti di Stato. Nonostante i bilanci in profondo rosso, la Popolare di Vicenza ha chiuso il 2016 con un buco di 1,9 miliardi, Veneto Banca di 1,5. La vigilanza europea avrebbe riconosciuto i requisiti patrimoniali per andare avanti nel piano industriale e di fusione, aggiungendo però che per realizzare tale piano servono ben 6,4 miliardi di euro di nuovo capitale, una cifra altissima rispetto ai 4,7 preventivati. La decisione della BCE apre la strada al passo successivo, cioè al via libera dell'antitrust europeo sull'utilizzo della ricapitalizzazione precauzionale dello Stato, che a questo punto entrerebbe con una quota di maggioranza. Se ci sarà questo via libera, l'autorità europea porrà una condizione rigidissima, quella di predisporre un piano industriale che consenta con pesanti tagli dei costi il ritorno alla redditività. Sembrano essere fuori dal rischio di risoluzione dunque le due banche venete, ma la strada per la ripresa resta ancora piena di ostacoli. Katie Mandurino, Radio 24, il Sole 24 Ore. Rimaniamo più o meno nell'ambito dei temi economici, nell'ambito delle competenze della Banca Centrale Europea, perché parliamo della nuova banconota in arrivo, quella da 50 euro. Entra in circolazione da oggi la nuova banconota da 50 euro, la più diffusa con quasi 9 miliardi di pezzi, ovvero circa il 45% di tutti i biglietti in circolazione, e la più falsificata. Per questo, come sottolinea la Banca Centrale Europea, la nuova banconota è stata concepita con avanzate caratteristiche anticontraffazione. Dopo quelle da 5, 10 e 20 euro, quella da 50 è il quarto taglio della seconda serie di biglietti in euro ed è denominata Europa perché su entrambi i lati del biglietto è raffigurata raffigurato il ritratto di Europa, figura della mitologia greca. Guardando la banconota in controluce, la finestra nella parte superiore dell'ologramma rivela in trasparenza su entrambi i lati del biglietto proprio Europa. E il suo ritratto appare anche nella filigrana. Le vecchie banconote da 50 euro della prima serie continueranno ad essere immesse in circolazione in parallelo insieme ai nuovi biglietti fino ad esaurimento. La serie Europa non comprenderà la banconota da 500 euro. Saranno invece mantenuti gli altri tagli da 5 a 200 euro. Per i nuovi biglietti da 100 e 200 bisogna invece aspettare la fine del 2018. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A chiudere questa prima parte della trasmissione, e quelli che ci stanno seguendo nella diretta video su Facebook l'hanno già visto, ci ha raggiunto Carlo Genta per fare un punto calcistico di giornata, con un occhio soprattutto, Carlo, ovviamente al derby di questa sera. Tra l'altro derby senza barriere sulle curve, no? Derby senza barriere sulle curve, dopo tanto tempo, dopo tante diatribe, e annunciati 50.000 spettatori all'Olimpico, che non è poco. La Roma chiamata all'impresa. All'andata ha vinto la Lazio 2-0, è una partita importantissima per tutte e due le forse, squadre. Forse anche le forze dell'ordine chiamate all'impresa a questo punto. Vabbè, speriamo chiamate ad un'impresa di puro controllo. Insomma, sì. Ci auguriamo questo. Intanto ieri sera abbiamo visto chiudersi la 30ª giornata di campionato con un risultato a sorpresa. La Sampdoria che ha vinto a Milano contro l'Inter 2-1, ed è un risultato che ha una valenza particolare per il campionato e anche per la Lazio, perché l'Inter a questo punto è lontanissima dalla zona Champions League a 55 punti, mentre Napoli ne ha 64, quindi il discorso da questo punto di vista è chiuso. Per i nerazzurri, che a questo punto devono cercare l'Europa minore, un'Europa minore che significa Europa League, che vedo molto molto difficile invece per il Milan. Dunque un calcio milanese in profonda crisi, mentre Roma aspetta questa partita che determinerà la prima finalista di Coppa Italia. Domani sera è in programma Napoli-Juventus, si parte dal 3-1 per i bianconeri. Possiamo ipotizzare, sulla base dei risultati dell'andata, una finale tra Juventus e Lazio. Tra Juventus e Lazio. E poi vedremo che cosa succede. Grazie dunque a Carlo Genta, che ritroviamo ovviamente alle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi riprendiamo con il nostro giro per l'Italia. E riprenderemo ancora una volta, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, ve ne ricorderete, di questa questione dei valichi di confine con la Svizzera che vengono chiusi di notte. In più c'è la richiesta dei certificati penali solamente per gli italiani che vanno in Svizzera. Insomma, un po' di tensione su questo fronte. E poi ci occuperemo di Pharmacup, che è l'azienda che gestisce le farmacie comunali di Roma. Oggi abbiamo letto delle dichiarazioni del commissario Stefanori che ci hanno fatto siamo rimasti decisamente colpiti. Chi ha commesso i furti, dice, verrà punito ma non licenziato, e ne chiederemo conto direttamente a lui. A tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presento. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di San Pietroburgo e delle bombe, abbiamo parlato di corruzione, appalti nella sanità a Napoli e tre arresti per funzionari del Comune di Milano, della risalita del potere d'acquisto degli italiani secondo i dati dell'Istat, della proposta di 5 Stelle a Roma per la democrazia diretta nella capitale e poi, come avete sentito, anche di calcio e del derby di questa sera. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e torniamo in realtà ai confini con la Svizzera. Ce ne siamo occupati la scorsa settimana, lo ricorderete, un po' di polemica è sorta perché alcuni valichi di confine svizzeri si è deciso di chiuderli durante la notte. I titoli dei giornali dicevano per evitare furti in casa dei cittadini ticinesi. Che cosa succede adesso? Che la vicenda si sta un po' gonfiando. Nei giorni scorsi è andata in Svizzera Laura Ravetto, che è parlamentare, presidente del comitato di controllo sul trattato di Schengen. Buongiorno Ravetto e benvenuta ai nostri microfoni. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. La qualcosa si mescola tra l'altro con una norma che è in vigore in realtà da un paio d'anni, che è la richiesta del certificato penale per gli italiani che lavorano in Svizzera, in particolare nel Canton Ticino. Allora Ravetto, che sensazione ha avuto andando in Canton Ticino? Ma guardi, allora, questa sensazione, io penso che il governo federale si renda conto che queste sono misure che probabilmente loro ritengono sperimentali e che non dovranno continuare nel tempo, perché le ritengo io personalmente non solo inefficaci ma anche vagamente discriminatorie. Mi preoccupano di più certe forze politiche dentro il Parlamento, invece mi sembra che facendo leva su una spinta, diciamo così, identitaria, siano anche in maniera un po' propagandistica sponsorizzandole. Io ho parlato con dei parlamentari là che mi hanno detto: ah, noi vorremmo poi estenderli anche ad altri valichi. Insomma, questa cosa onestamente mi ha preoccupato, nel senso, io sono certa che Svizzera e Italia sapranno collaborare a livello governativo, però intanto mi sono premurata non solo di andare in Svizzera, ma anche ho chiamato l'ambasciatore svizzero a Roma in audizione presso il comitato Schengen che presiedo, e ho scritto una lettera al ministro degli interni e degli esteri dicendo: guardate che però non è che la Svizzera chiude tre valichi anche se in maniera sperimentale e anche se in maniera provvisoria e anche se su tre valichi minori, senza informarne il governo italiano e la Commissione Europea. Ravetto, la interrompo perché poi già arriva qualche domanda da ascoltatori. Vogliamo chiarire agli ascoltatori che è pur vero che la Svizzera non è nell'Unione Europea, però c'è un'adesione ad una parte di Schengen che esiste, insomma, in termini, certo, di libera circolazione. No? Vogliamo chiarirlo? La Svizzera non solo aderisce a Schengen e quindi dovrebbe garantire la libertà di circolazione e quindi assolutamente non la chiusura dei valichi o ripristino delle dogane, se non per motivazioni che però, ripeto, devono essere comunicate preventivamente alla Commissione Europea e al governo italiano in questo caso, cosa che a me non risulta sia stata fatta. Ma aderisce anche ad un accordo Unione Europea-Svizzera che pretende ovviamente il trattamento non discriminatorio di tutti i cittadini, sì, europei. Quindi l'ulteriore domanda che io posso ai parlamentari svizzeri è stata: scusate, ma voi nella Svizzera settentrionale, dove invece c'è un fenomeno di frontalieri francesi, avete messo ad esempio il casellario giudiziario? E la risposta è stata no. Anzi, meravigliosamente oggi. Vabbè, Ravetto, ma noi siamo più pericolosi, no? È ovvio. Meravigliosamente oggi un rappresentante dell'istituzione svizzera sul Corriere mi replica dicendo: ma siete voi che avete le organizzazioni criminali. Ora, io questo lo ritengo abbastanza inaccettabile, sia come risposta, e poi ripeto, come presidente di Schengen sono molto preoccupata che si instauri questo principio per cui, visto che non si è in grado di combattere la criminalità, di gestire i flussi migratori e di garantire la sicurezza, si decide tutti di chiudersi ognuno nei propri confini, con secondo me un disastro non solo valoriale ma anche di natura economica. Però ripeto, confido nel buon senso certamente del governo federale, che immagino parlerà col governo italiano. Allora grazie a Laura Ravetto, presidente del Comitato Parlamentare di Controllo sul Trattato di Schengen e dai confini con la Svizzera, sempre qua su Radio 24, così come su Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, dove siamo in diretta video. Passiamo a Roma. Angelo Stefanori, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. È il commissario straordinario di Pharmacap. Cos'è? È l'azienda Farma Sociosanitaria Capitolina, è in sostanza quella che gestisce le farmacie comunali. La faccio molto semplice, poi ci saranno sicuramente anche altre competenze, ma vogliamo semplificare. Stefanori, io devo dire la verità, stamattina quando ho visto nelle pagine interne del Messaggero, quelle di Cronaca di Roma, queste sue dichiarazioni, sono sobbalzato sulla sedia, perché la cosa è questa: ci sono dei dipendenti dell'azienda di Pharmacap che sono accusati di furto. Questo andrà provato in giudizio, chiaramente, perché siamo garantisti fino in fondo, però da quel che lei ha detto, se anche questi dovessero essere riconosciuti colpevoli dei furti che hanno commesso all'interno di Pharmacap, non saranno licenziati ma solamente sospesi, è così? No, io ho detto una cosa diversa, ho detto che il procedimento disciplinare ha regole autonome rispetto a quello penale e quindi non è possibile licenziare i dipendenti con una lettera che ha una motivazione che non arriva ad una pagina, riportandosi semplicemente all'esistenza di un'indagine penale e all'esistenza di filmati che proverebbero, ma siamo ancora in fase di indagini preliminari, la sottrazione di farmaci all'azienda. Quindi sotto questo profilo occorreva motivare diversamente e in maniera sostanziale gli addebiti mossi e quindi dare un senso ad una sanzione così grave qual è quella della perdita del lavoro, soprattutto quando parliamo di persone di età sì, non più giovane, e quindi dare appunto una motivazione seria, non dire c'è un'indagine penale quindi io sì, ti licenzio. Questa sì, è una motivazione larvale che di per sé a mio avviso non è sufficiente, perché non rappresenta una giustizia, sembra più un comportamento vendicativo, ma noi dobbiamo essere giusti e non vendicativi. Sì, lei ha detto reintegreremo subito i dipendenti coinvolti nell'inchiesta, se hanno rubato saranno puniti, magari sospesi per un po', ma non saremo noi a rubare loro la vita. Queste sono parole testuali, noi corrette? È correttissime, noi non è che reintegreremo, noi rifaremo il procedimento disciplinare con i criteri di giustizia, quindi bisognerà vedere analiticamente la posizione di ciascuno, non appiattendosi esclusivamente sul fatto che ci sia un'indagine penale, certo, valutando caso per caso le risultanze attuali e anche le difese sì, che debbono essere riportate nel provvedimento che poi si adotterà. Non è possibile, ripeto, togliere il lavoro con una lettera standard, una motivazione praticamente uguale per tutti, sì, che non arriva ad una pagina. Ascolti Stefanori, molto brutalmente, se dovessero essere riconosciuti colpevoli, chissà quando mai, perché poi qualche ascoltatore ci scrive via WhatsApp, sì, il processo finirà tra 10 anni, questi saranno licenziati oppure no? Perché se uno ruba in azienda, insomma, tutto sommato mi sembra abbastanza normale che debba essere licenziato, certo, no? Non c'è dubbio, ma guardi, il procedimento disciplinare si muove su criteri diversi da quello penale, si fonda innanzitutto sull'immediatezza, quindi certamente non si aspetteranno 10 anni, è proprio adesso che bisogna motivare con riferimento esclusivo ai principi disciplinari, e quindi se in sede di istruttoria disciplinare, che però deve essere vera e profonda, si accerterà la sottrazione di farmaci, perché in molti casi io ho visto che i dipendenti sono riusciti a giustificarsi esibendo scontrini di acquisto, pagamenti col bancomat, quindi quello che le immagini di riprese fatte all'interno delle farmacie hanno mostrato non necessariamente dimostra che ci sia stata una... Perché le immagini riprendono queste persone che entrano nelle farmacie, si prendono i medicinali e se li portano via. Esattamente, sì, però li riprendono in un ambiente diciamo così riservato della farmacia, quindi nello spogliatoio, vicino al bagno, in magazzino, eccetera. Quindi se queste persone sono in grado di dimostrare, in alcuni casi sembra che lo abbiano fatto, che hanno effettivamente pagato, naturalmente anche se c'è un'indagine penale, così come dimostreranno in sede di indagine penale la loro innocenza, possono farlo ancor prima in sede di procedimento disciplinare, che però, ripeto, quindi deve fondarsi su criteri propri. Cioè mettiamola così, Stefanori, noi siamo tranquilli che tra 10 anni, quando arriveremo alla Cassazione e saranno riconosciuti colpevoli anche in terzo grado di giudizio, non ci interesserà più, perché il procedimento disciplinare sarà finito da tempo. Ok, perfetto. E quanto tempo ci vorrà? Quanto tempo ci vorrà per... Ma io penso che in un mese, due, al massimo, chiudiamo tutto. Va bene, però vedremo. Bisogna essere giusti e completi. La ringrazio, grazie Angelo Stefanori, commissario straordinario di Pharmacup, e vedremo che cosa riconoscerà questa indagine disciplinare e che cosa dirà. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, come sempre, mentre siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, oltre che su Radio 24, continuate anche a scriverci al 349-238-6666 via SMS su WhatsApp, e poi riprendiamo il nostro giro per l'Italia. Andremo a Rapallo, dove è partita un'iniziativa curiosa, interessante, e poi ci occuperemo di una cosa che avete sentito anche nei nostri titoli. A Palermo è stato assolto un uomo accusato di estorsione e le associazioni antiracket sono state condannate a pagare le spese. Si erano costituite parte civile, erano 13. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. San Pietroburgo, è stata chiusa una nuova tratta della metropolitana per un falso allarme, sono 14 le vittime, 12 i feriti gravi per l'attentato. A parte nella sanità, ci sono stati arresti e perquisizioni a Napoli, inchiesta sulla corruzione anche a Milano, in manette 3 funzionari del comune. Sale il potere d'acquisto, più 1,6%, il rialzo massimo dal 2001, stabile nel quarto trimestre il rapporto tra deficit e PIL. I 5 Stelle a Roma lanciano l'idea di petizioni online, referendum su internet, democrazia diretta entro 5 anni, dicono. Calcio stasera, la Coppa Italia con il derby di Roma, è la prima partita all'Olimpico con la rimozione delle barriere, delle curve, la borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Effetto giorno. Veniamo adesso ad un caso che ci ha incuriosito, è una piccola storia che ci porta in Liguria, a Rapallo, e che riguarda l'ipotesi di concedere la residenza sulla base di questa nuova tassa creata dal governo, una tassa forfettaria da 100.000 euro l'anno per chi è milionario trasferisce la residenza in Italia. E Rapallo sta pensando di sfruttarla per concedere la residenza a chi, per così dire, prende casa in una barca ormeggiata nel porto. Siamo in linea con il sindaco Carlo Bagnasco. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi, ce grazie la spiega, per l'opportunità. Ce la spiega un po' meglio questa cosa? Sì, è un'opportunità. Noi a Rapallo abbiamo un porto, il porto Carlo Riva, dove è un porto molto molto moderno, dove ci sono dei nomi importanti della nautica italiana, e anche come dal punto di vista di imprenditori italiani. E parlando con i miei collaboratori, con la mia assessora al bilancio e con tutta la mia giunta, abbiamo pensato non fare di una tassa, che è la flat tax, non rendere un'opportunità anche alla città, facendo in modo che queste persone possano in maniera ufficiale prendere la residenza nelle loro imbarcazioni. Con l'introduzione del codice alfanumerico al posto del civico. Sì, quindi di fatto la loro barca diventa la loro casa. Ci sono già dei cittadini stranieri che sono sostanzialmente in questa situazione da voi, da quel che ho capito, no? Noi abbiamo delle situazioni ad oggi però che non sono tra virgolette regolari. Abbiamo delle persone che vivono in barca, no? E quale, tra l'altro, il comune di Rapallo in Italia è il primo che dal punto di vista di tasse della spazzatura così era in regola, è già in regola, cioè pagano già l'IMU. Sì, e quindi sostanzialmente non ci sarebbe bisogno di fargli pagare di più, non è che nel momento nel quale diventano cittadini gli fate pagare anche l'IMU sulla barca? No, che lo pagano già. Sì, ve lo pagano già. Ha capito, è l'unico comune dove lo pagano già e di conseguenza ne hanno, secondo i nostri tecnici, secondo i nostri studi all'interno della nostra amministrazione, ne hanno diritto, perché pagando l'IMU praticamente loro hanno proprio una sorta già di residenza. E quale migliore occasione questa di renderla proprio ufficiale nella loro barca? Sarebbe la prima città in Italia a farlo, no? A fare una cosa di questo genere, perché succede a Londra e Parigi? Bravissimo, sì, succede a Londra e Parigi, in Italia è la prima. Sarebbe la prima. E quante persone immaginate o lei immagina di poter attrarre? Ma guardi, noi abbiamo parlato con la direttrice del porto che ci ha dato una fortissima collaborazione, e questa idea viene da lei, che è un'esperta del settore, si chiama dottoressa Marina Scarpino, e da oggi è diventato pubblico questa possibilità, e stamattina proprio, è uscito sul Secolo XIX la notizia, adesso ripresa da voi, stanno arrivando le prime telefonate per prendere delle informazioni. La ringrazio, grazie sindaco, buona giornata. Grazie ancora a voi. Il nostro giro per l'Italia adesso ci porta, dalle parti di Palermo, ci porta in Sicilia per una vicenda processuale che ha una caratteristica particolare, riguarda un caso di estorsione, una denuncia per estorsione, un processo che si apre per una serie di persone, succede che il presunto estorsore viene assolto e le associazioni anti-racket vengono condannate a pagare le spese. La notizia viene riportata dal quotidiano La Repubblica, è stata riportata anche da Sole 24 Ore e da Nino Amadore. Il Tommaso Toia, figlio dell'imprenditore che ha denunciato gli estorsori, dice: siamo molto amareggiati. Noi siamo in linea con l'avvocato Valerio D'Antoni, che è l'avvocato agli eredi di Domenico Toia, l'imprenditore che denunciò gli estorsori appunto, e della parte civile Comitato Addio Pizzo. Parte civile che è solo una, mi pare, di 13 complessivamente tra il comune, tutte le varie associazioni. Associazione anti-racket, anti-pizzo e via dicendo. Buongiorno avvocato. È una decisione particolare quella di condannarvi a pagare le spese processuali, no? Beh, in realtà diciamo non è nulla di scandaloso sul piano tecnico, giuridico. Sì. È però una decisione che a Palermo si registra per la prima volta dopo diversi anni in cui abbiamo assistito a processi in cui anche nel caso di assoluzione di proscioglimenti di imputati per mafia non si accoglievano le richieste da parte dei difensori degli imputati di condannare le parti civili, le vittime, sì, alla reclusione delle spese legali. Sì, però, lo ricordiamo, D'Antoni, mi scusi, perché poi qualche ascoltatore ci scrive giustamente e dice attenzione, perché qua è comunque un processo nel quale questa persona è stata assolta e quindi al momento vale l'innocenza di questa persona e quindi, come dire, è una decisione corretta, è quello che diceva anche l'avvocato, cioè tecnicamente è una decisione ineccepibile. Dal punto di vista pratico è una cosa che ci diceva non è sostanzialmente mai stata applicata finora. Non è mai stata applicata, è una norma che è contenuta al secondo comma dell'articolo 541 del nostro codice di procedura e che prevede proprio questo, che su richiesta del difensore, dell'imputato stesso, qualora appunto si viene assolto, si viene prosciolti, l'imputato può chiedere la condanna alle spese. In questo caso il giudice ha ritenuto in fatto e in diritto che c'erano i presupposti per condannare anche le vittime. È chiaro, io non posso biasimare certamente il rammarico, lo sconforto dei signori Toia come in qualsiasi altra vittima che riceve una decisione del genere. Tecnicamente e professionalmente mi corre l'obbligo di attendere le motivazioni e ovviamente la prognosi nostra è quella di impugnare, attaccare su tutta la linea questo provvedimento giurisdizionale, però attendiamo le motivazioni e vediamo qual è, sì, per capire, eventualmente qual è stato l'errore. Per capire come muovervi, c'è qualcuno che adombra il sospetto, avvocato, che il giudice sia voluto muovere in questa direzione anche come dire, per segnalare o sottolineare l'eccesso di parti civili ammesse, no? Ammesse a processo, siete appunto, come si diceva, 13 complessivamente. Sono 13 enti. Allora, intanto dobbiamo distinguere le parti civili in due categorie: la categoria delle persone offese, cioè le persone fisiche, gli imprenditori che hanno avuto le pressioni estorsive, che hanno avuto i danneggiamenti. Va bene, D'Antoni, che queste siano le parti civili è abbastanza normale, chiaro, anzi corretto, forse, direi, no? È ovviamente corretto, è logico, direi. Poi c'è da diversi anni, direi, una prassi invalsa nei processi di mafia palermitani, ma siciliani in generale nel paese, in cui diverse associazioni antimafia, anche laddove non hanno una reale legittimazione sostanziale nel territorio, quindi per intenderci non accompagnano delle vittime di richieste estorsive a denunciare, a fare luce sui fatti di indagine, ma fanno attività semplice di sensibilizzazione sociale, hanno avuto ingresso nei processi penali e hanno ottenuto dei risarcimenti. Ora, però mi preme prendere le distanze da questo ragionamento. Cioè, una cosa è una scelta tecnica, una sentenza che si deve basare sui presupposti di fatto e di diritto, un'altra è, diciamo, il fenomeno, chiamiamolo un po', dell'ipertrofia delle parti civili. Ora, leggere il provvedimento del giudice come un atto politico di polemica alle parti civili mi pare veramente insensato. Mi faccia capire, D'Antoni, in caso di condanna queste associazioni che si costituiscono parte civile vengono risarcite anche se, come dire, non sono entrate direttamente, come dire, nelle vicende che riguardano il processo? In astratto è così, però mi preme chiarire un passaggio. Le associazioni, così come le vittime, persone fisiche, avrebbero la possibilità, avevano la possibilità, entrambe, associazioni e persone fisiche, di accedere a un fondo nazionale delle vittime delle estorsioni della mafia per poter recuperare questi risarcimenti ottenuti, perché spesso i mafiosi e gli imputati non hanno nulla, hanno tutto sequestrato. Da diversi anni, da almeno 5 anni, la legge è cambiata e questo accesso al fondo è consentito soltanto alle persone fisiche, quindi in realtà le associazioni hanno una presenza molto più simbolica di prima, perché non possono accedere concretamente ai risarcimenti. Ok, no, perché mi interessava sottolineare se c'è un interesse economico oppure no. Mi sembra che sia stato chiaro da questo punto di vista. Grazie Valerio D'Antoni, dobbiamo veramente chiudere, siamo in ritardo. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.